America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Un campanello d'allarme, il campanello di chiusura della borsa di Wall Street, non lo sentivamo da qualche tempo. Ieri la borsa ha chiuso male, meno 243 punti per l'indice Dow Jones, meno 26 punti al Nasdaq, meno 20 punti all'S&P 500, ma in termini percentuali parliamo dell'1,82% di ribasso per il Dow Jones, 0,88% il Nasdaq, 1,44% S&P 500, un campanello d'allarme, vi dicevo, non soltanto per l'andamento dei profitti trimestrali. Pensate che su 130-150 aziende che hanno comunicato già i profitti trimestrali, il 60% ha deluso per andamento del fatturato, per l'andamento dei profitti. Vi dicevo, un campanello d'allarme che riguarda anche la politica, che riguarda Barack Obama. Barack Obama è uscito bene dal dibattito dell'altra sera, ha vinto ai punti, ma dal punto di vista politico un peggioramento del quadro di borsa e del quadro economico certamente non avvantaggia Obama, che si trova in difficoltà e in rincorsa sul suo concorrente. Vi do semplicemente un esempio: Rasmussen, che ha pubblicato dei sondaggi relativi al posizionamento dei candidati prima del dibattito dell'altra sera, vedeva Barack Obama all'inseguimento di Romney su base nazionale addirittura di 4-5 punti. This is iPad Mini. E dire che la giornata era cominciata abbastanza bene, perché l'Apple Computer aveva presentato in California, San Jose, il suo nuovo iPad mini, e spesso 7,2 mm, pesa la metà rispetto all'iPad, ha una risoluzione comunque quasi comparabile, un prezzo molto accessibile. Insomma, la Apple continua ad allargare il suo potenziale di mercato. Sembrava, vi dicevo, una notizia positiva in apertura di giornata, ma è stata purtroppo controbilanciata da notizie negative su altri fronti. I profitti trimestrali, vi dicevo, di una gran quantità di aziende americane non sono andati bene. Ieri, tanto per darvi un esempio, la DuPont ha riportato profitti quasi azzerati, un taglio di 1.500 posti di lavoro, ha perso il 9,06% in borsa. La 3M è inciampata anche lei in vendite trimestrali deboli, è caduta del 4,11%, la Xerox ha perso il 5,12% e persino la Apple, nonostante il suo nuovo prodotto, ha perso il 3,26%. In borsa. Che succede? E succede che la stagione delle trimestrali non sta andando come si sperava, perché la crescita è fiacca. È questo il punto centrale che riguarda il travaso sulla politica. Una crescita fiacca. Mancano 2 settimane alle elezioni americane. Barack Obama in questo momento si trova a rincorrere Mitt Romney. Se dovessero esserci altri risultati negativi in borsa, se si dovessero accumulare nuove perdite da qui alle prossime 2 settimane, se il 2 novembre, quando ci sarà il dato sulla disoccupazione in America per il mese di ottobre, bene, quel dato dovesse essere negativo, e possiamo anche sospettare che lo sia, visto che soltanto la DuPont ha licenziato 1.500 persone nell'ultimo trimestre. Ecco, se questi sviluppi dovessero proseguire sull'onda negativa, per Obama si aggiunge un problema ulteriore, devo dire un problema forse più preoccupante del previsto. Forse anche per questo Mitt Romney, vi dicevo, sornione, è apparso più pacato l'altro giorno. Forse sapeva, conoscendo il mondo degli affari, businessman, che le cose non andavano esattamente per il meglio. Gentlemen, your campaigns have agreed to certain rules, and they are simple. They've asked me to divide the evening into segments. I'll pose a question at the beginning of each segment. You will each have 2 minutes to respond, and then we will have a general discussion until we move to the next segment. Ma torniamo al dibattito. Avete sentito la voce di Bob Schiffer, il moderatore? Ebbene, Schiffer è stato sotto accusa, soprattutto, devo dire, in Europa, anzi, in particolare in Italia, su molti siti internet, per non aver fatto una domanda sull'Europa. Io direi, c'è da chiedersi, ma i giapponesi, per esempio, hanno reagito anche loro con toni risentiti o stupiti per la loro assenza dal dibattito presidenziale dell'altra sera? Beh, non ci risulta, come non ci risultano stupore, preoccupazione in Brasile, in Canada, in Messico, nella Corea del Sud, in India, per le rispettive assenze dal dibattito. E dire che di ragioni per la gara di discussione di politica estera ce n'erano, e come. In Giappone c'è il problema delle basi a Okinawa, c'è un governo debole, c'è un debito spaventoso. con il Messico, ai confini c'è una guerra contro la droga, immigrazione illegale, mille problemi. In Canada, il vicino del nord, beh, ci sono le fabbriche della Chrysler, è un tema forte perché il settore auto comunque è stato affrontato anche l'altro giorno nel dibattito elettorale. La Corea del Sud poi condivide con l'America il problema nucleare della Corea del Nord e tutti sono stati ignorati, si potrebbe dire, come l'Europa, dalle considerazioni dei due candidati alla presidenza americana. Ecco, però sui Twitter italiani, anche in alcuni blog, in molti servizi, l'assenza europea è stata rilevata con un velo di preoccupazione. È curioso come questa connotazione preoccupata però sia emersa soltanto in Italia. Devo dire che c'era anche un tempo in cui con stupore dicevamo di audizioni americane, dicevamo non si è parlato dell'Italia, quando non c'era alcuna ragione specifica per parlare di noi se non per alleviare, diciamo, le nostre insicurezze. Se affrontiamo l'assenza europea dal dibattito come un segnale di scarsa importanza della nostra Unione, beh, è sbagliato, perché tutti a partire da Geithner hanno preso atto che per ora l'Europa sta molto meglio. Aggiungo, all'ONU è successo qualcosa di molto particolare. Other crises had threatened the European project in the past, but each time the Europeans have found a way to continue down the path on which they embarked more than 50 years ago. Ecco, Monti davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ha pronunciato un discorso forte, ispirato, me lo ricordo come se fosse oggi, sull'Europa prima che sull'Italia. Abbiamo assistito al salto qualitativo di un leader europeo al di là dello stretto panorama nazionale. Risultato: l'Unione è più forte. Perciò, se non si è parlato di Europa, non è perché l'America non ci reputi degni di attenzione, ma perché non abbiamo bisogno di attenzione, quantomeno sul piano economico, che è poi l'unico che interessa qui negli Stati Uniti d'America. Poi, per rassicurare anche coloro che magari qualche preoccupazione potessero averla, no, la domanda sull'Europa c'era, solo che i candidati hanno cominciato a parlare di politica interna e Bob Schiffer non ha fatto in tempo a farla. Se l'avesse fatta, mi ha detto comunque un amico che lavora alla CBS, avrebbe avuto una connotazione interna. Qual è stato l'impatto sulla crescita? E questo perché, come abbiamo visto, alla fine è l'economia che domina. E quindi ha concluso questo mio amico, dice, ma il fatto che l'Europa fosse in fondo alla lista è perché non desta in questo momento grandi preoccupazioni. Dovreste essere felici, happy, ha detto, non preoccupati. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Crosby, Stills & Nash, leggendari, hanno chiuso il loro tour mondiale con un concerto la scorsa notte al Beacon Theatre di New York. Per la prima volta hanno fatto tutti i brani dell'album di debutto uscito nel 69. E lì c'è una canzone che adoro, Teach Your Children. You, who are on the road, must have a code that you can live by. And so, become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.